Mi hanno chiesto di cambiare e io voglio cambiare questa regione. Da qui vogliamo mandare un grande saluto e un grande affettuoso ringraziamento alle province del Lazio per la straordinaria prova che hanno dato. E naturalmente ringraziamo qui l'impegno degli uomini, dei militanti, dei dirigenti del Popolo della Libertà, a cominciare dal presidente Berlusconi.